luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati. Sono a Bologna davanti al glorioso Palazzo Fava, uno degli edifici più importanti del tardo rinascimento della città, al cui interno ci sono meravigliosi affreschi della famiglia dei Carracci. Ecco, proprio sotto gli affreschi dei Carracci, con una cronologia perfetta, è esposta in questo periodo una collezione di dipinti che viene da Roma e viene niente meno che dai Musei Capitolini, dalla grande pinacoteca che Papa Benedetto XIV Lambertini fondò a metà del Settecento. È praticamente il primo museo moderno della storia. Ecco, perché questa mostra è importante? Perché ritornano a Bologna un nucleo di dipinti che sono tutti bolognesi, quindi c'è Guido Reni, ci sono i Carracci, tutti i grandi maestri tra 500 e 600 a Bologna, che vennero comperati a Bologna dal cardinale Giulio Sacchetti, che era il cardinale legato, cioè l'amministratore pontificio di Bologna, e che era un grande collezionista, e all'inizio del 600 fece man bassa di capolavori. Poi li portò naturalmente a Roma e li lasciò in eredità alla famiglia. Passa un secolo e i Sacchetti sono pieni di debiti e allora tentano di fare un colpaccio, cioè di vendere all'estero 180 dipinti. Ed ecco che interviene il pontefice, che blocca la vendita. Non solo blocca la vendita, ma fa una cosa ancora più importante: compra lui il nucleo di quadri, quindi salverà dalla dispersione uno dei nuclei più importanti della pittura del Seicento bolognese, trasferita a Roma. Ecco, Palazzo Fava riporta a Bologna per la prima volta questo nucleo in quasi interamente, lo riporta perché la Pinacoteca Capitolina è in parte chiusa al pubblico, quindi questi quadri non si potrebbero vedere a Roma, si possono così vedere a Bologna. È un caso interessante perché ci fa riflettere sull'importanza che ci siano dei vincoli che blocchino le dispersioni delle opere d'arte, ed è proprio nel Settecento e nello Stato Pontificio che si scrissero le prime leggi per fermare questa dispersione. Saranno leggi che diventeranno particolarmente utili, non per fermare Napoleone, perché in realtà Napoleone fece man bassa nello Stato Pontificio, ma dopo, con il Cardinal Pacca, queste leggi saranno poi la base sopra la quale il nuovo Stato italiano costruirà la propria legislazione di tutela dei beni artistici e storici.